Il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando. Buongiorno sindaco, grazie per essere con noi. Senta, lei oggi alle 9, tra poco, quindi sarà in aula di tribunale a Palermo per la prima udienza del processo sulla cosiddetta trattativa. È un processo clamoroso perché siederanno tra gli imputati mafiosi e uomini delle istituzioni, alti uomini delle istituzioni, il generale Mario Mori, Giuseppe De Donno, Antonio Subranni, ufficiali dei carabinieri accusati di aver fatto quella trattativa. Perché intanto lei va in aula? Come sindaco, ma anche per altri motivi oppure... civile, rappresentanza della città di Palermo, l'ho sempre fatto fin da quando nel 1986, nel lontano 86, mi costruì parte civile nel primo maxi processo e in tutti gli altri casi in futuro, in sequenza ho dato disposizione all'avvocatura comunale di costituirsi parte civile in tutti i processi di mafia che si celebrano a Palermo o che riguardano episodi di mafia registrati a Palermo. Però che effetto le farà, sindaco, entrare in aula e vedere che sono seduti sul banco degli imputati dei mafiosi acclarati, Totò Riina, Giovanni Brusca, con uomini delle istituzioni? Non sembra una cosa un po' incredibile? La conferma di quello che dicevo 20 anni fa e venivo insultato quando dicevo che la mafia è il volto dello Stato, lo Stato è il volto della mafia. Esattamente, la mafia è questo. La mafia non è un fenomeno criminale che sta fuori dallo Stato, fuori dalle banche, fuori dalla Chiesa, fuori dalla civile. La mafia, per essere mafia, ha bisogno di stare dentro lo Stato, dentro le banche, dentro la civile. E questa vicenda drammatica è due volte grave. La prima perché siamo in presenza di crimini mafiosi, la seconda perché siamo in presenza di uno Stato che avrebbe assunto il volto della mafia. Ma lei sta dicendo che entrando in aula cioè, reputa credibile il fatto che possano essere accomunati mafiosi e questi uomini dello Stato? Cioè, rende, secondo lei è credibile questa accusa? Guardi, io non faccio il magistrato, io chiedo che i magistrati facciano e accettino la verità. Io so, ma per dirla con Pasolini, io so, ma non ne prove né indizi, che vi fu una trattativa tra Stato e mafia. Io so, ma non prove né indizi, che Paolo Borsellino sarebbe stato ucciso perché gli sarebbe opposta a quella trattativa. Tanto mi basta, da cittadino, da persona pensante, da sindaco, espressione di una comunità, chiedo che i magistrati trovino le prove e gli indizi. Ma lei dice io so in base a che cosa? Perché sa, gli indizi e le prove in questo caso sono fondamentali. Indizi e le prove sono non fondamentali, sono essenziali in uno Stato di diritto ed è compito dei magistrati, però i magistrati per trovare le prove e gli indizi devono essere messi in condizioni di trovarle, ecco la ragione per la quale ognuno faccia la sua parte. Noi cittadini chiediamo verità e giustizia, io in rappresentanza dei cittadini chiedo verità e giustizia e i magistrati accertino se vi sono le prove e gli indizi. E quando comunque entrerà in aula lei riuscirà a distinguere dove sta la mafia e dove sta lo Stato? La cultura mafiosa non c'è bisogno di entrare in aula per scoprirla. Dove sta il reato mafioso aspetta il tribunale a accertarlo.